Rieccoci in onda con Sono Solo Nuvolette. Io sono sempre Fulvio Gatti, Fulvio De Cat su Twitter. Ero partito bene, poi mi sono incagliato subito. C'è tanto, per chi ci guarda in webcam su www.radioarchimede.it, c'è già una novità, perché l'ospite di oggi è molto più tecnologico di me, ha già tre schermi a sua disposizione. Questo vuol dire essere un vero... La differenza tra geek e nerd, questo è complicato, però a volte il geek è più tecnologico, il nerd è più cultura pop. Vabbè, Fabrizio Furchi. Ciao, sono felicissimo di essere qua. Grazie, fantastico. pensa fossi stato, non fossi stato contento. Sono torturato nell'essere esatto, qua. Esatto, no, molto dispiaciuto di essere qua. E con tutti sti schermi, con Fabrizio la cosa divertente sarà parlare un po' di tutto quello che è l'universo nerd, ma è quello che, e questo lo continuiamo a farlo continuamente. La cosa interessante è che Fabrizio fa una cosa molto importante, questa è la dimostrazione che i nerd devono salvare il mondo, e ogni nerd che non cerca di salvare il mondo è un nerd che perde una battaglia contro il Dottor Destino o contro uno qualunque dei villain. Perché dovendo introdurre Fabrizio, ho imparato un termine nuovo, che è Graphic Facilitator. Che cos'è un Graphic Facilitator? Che suona fichissimo. Sì, no? Esatto, cioè, è un'etichetta che non serve a niente, giusto per fare figo, oppure ha un senso? Ma come tutte le etichette anglosassoni nel gergo italiano, è sempre una di quelle etichette che sembrano molto roboanti e sembrano appunto fare il figo. In realtà serve, nel senso che fondamentalmente racconta due cose. Una è la parte grafica, ed è facile da abbastanza facile da intuire, e l'altra è la parte di facilitazione, che poi è un mestiere legato a chi si occupa appunto di workshop, di formazione, della mediazione all'interno di gruppi di pensiero e di creatività. Quindi quello di cui mi occupo, che in realtà non è solo Graphic Facilitation, ma è una delle varie applicazioni di qualcosa che poi prende anche forse troppi nomi, che poi è anche lo sketchnoting, lo scribing o la visual facilitation, è di visualizzare, cioè fare a disegni, spesso quasi sempre a mano, il racconto, lo storytelling di quello che sono dei dati, comunicazione, processi e così via. Quindi in realtà è una sorta di mix tra quello che è il mondo del fumetto, la disciplina di racconto grafico del fumetto, e quello che è, non so, potremmo chiamare la data visualization, l'infografica, insomma questa cosa qua. In direi più, Scott McCloud. Oh, ah, sì. Fatta anche live il più delle volte. L'elemento della performance, esatto. Infatti. Quindi tu prendi appunti, la banalizzazione che prendi appunti a fumetti. Sì, no, piace come... ci sta. Sì, okay. A me piace molto come e Scott McCloud ci insegna che i fumetti di per sé, come due immagini accostate, ci sono ovunque. Mi ricordo in uno dei saggi di Scott McCloud, adesso non saprei dirti quale, che c'era semplicemente le istruzioni sul... che trovi nel pieghevole su ogni aereo, sì, semplicemente sì. Lui ti dice guarda, sì, che sono fumetti quelli. Mi pare che sia Understanding Comics, effettivamente. Sì, assolutamente, ma in realtà appunto quello che secondo me prenderà come piega la chiacchierata di oggi sarà su innovazione e ibridazione di quello che poi è la potenza del mezzo del fumetto, che è anche difficile da andare a, come dire, imbrigliare, per cui appena tu la stringi come l'acqua tende, esatto, a sfuggirti dalle dita. Esatto, a monte ci sono le immagini, però, e forse questo è il più grosso errore, che si tende ad associare, a parte le castronerie clamorose del fatto di pensare a fumetto e magari pensare a cartoni animati, per via di tutta una serie di magari legami a personaggi, o addirittura quell'altro errore clamoroso, scusa, sbanato, voce del verbo sbanatare, antica lingua sabauda, provinciale, perché poi vabbè... L'altro problema è che in tante occasioni si associa il contenuto al contenitore, quando invece il fumetto è un linguaggio potentissimo. Sì, perché effettivamente sfugge dagli schemi, cioè ha degli schemi suoi, però è anche abbastanza versatile da andarsi a attaccare, andare a rubare pezzi di altri media, che poi è quello che in realtà vediamo quasi sempre nell'antagonismo tra fumetto e cinema, no? Ci sono tantissime discussioni, se restiamo nell'ambito, come dire, più autoriale, Più consueto il fatto che il fumetto abbia o non abbia dignità al cinema, o scuole di sceneggiatura che si basano in realtà tantissimo su una scrittura cinematografica del fumetto, sono consone, continue, forse anche fin troppo ormai assodate. Sì. E invece, appunto, come succede per le istruzioni di salvataggio nell'aeroplano, il fumetto ti permette di raccontare cose che di solito non sono per forza quello che viene raccontato né nelle graphic novel né nel fumetto commerciale né nel contesto editoriale in generale, ma si può applicare a altri tipi di clientela, anche potremmo dire altri certo. tipi di pubblicazione. Quindi sfuggi dal contesto editoriale, entri a parlare magari con realtà come le aziende eccetera, ma porti poi quello stesso know-how. Poi io in realtà sono una bestia strana, per cui ho problemi a relazionarmi paradossalmente professionalmente con i fumettisti. In realtà lo dico scherzando, nel senso che c'è la distinta concorrenza, visto che anch'io faccio radio e anch'io mi occupo di fumetti, però esatto, siamo un po' tranquilli, tempo di raccontare. Esatto, ciò che era divertente e ciò che forse in realtà mi ha trattenuto, perché un po' di soggezione per questa cosa che Fabrizio insieme Piero Gianmarco, Giovanni Vignando, Andrea Siviero conduce Mercoli Comics, un bel po' di figliuoli, ha di gran lunga più storia su web di Sono Solo Nuvolette. E siete, tra l'altro, sarete anche quest'anno, avrete una postazione a Lucca Comics, sì, avete già avuto altri anni, media partner, torneremo, quindi in realtà noi io di autori di fumetti ne conosco e ci chiacchiero puntualmente anche tanto, e mi piace avere esatto. a che fare. Poi la cosa divertente per me era in realtà si era parlato, questo è tempo fa, era stato un invito a Viceversa, forse non avevo ancora, io Sono Solo Nuvolette, sarei dovuto venire da voi. Sì, poi avevo purtroppo un impegno di lavoro al paesello. Vedremo di insomma finire questo scambio culturale. Okay. Che stiamo... A me divertiva molto, intanto perché in pur spirito sharing economy, anche perché qui in realtà quello che facciamo è cerchiamo di condividere contenuti e fare in modo che tutta una serie di A e B, ciò che ci insegna la sharing economy, che A più B di solito da qualcosa di più di un solo C. Certamente. Perché parlo di A e B e C quando potrei dire 1 più 1, 2, vabbè. Perché in radio i disegni non vengono bene, quindi se no l'avremmo disegnato. Ok, A, B, C, ok, questo è senz'altro. Poi ti giuro che a Carrara Show ho cercato di spiegare a Lucio Parrillo il sistema binario, perché c'era un simpatico geek, immagino, a questo punto, e questa sarà una battaglia epocale, distinguere cosa vuol dire nerd, cosa vuol dire geek. Ma secondo me i geek cercano di fare più i fighetti. Ah, ok. I nerd invece sono un po' più... Ok, questa è già... però va troppo vicino alla mia versione, quindi non possiamo fare il flame in studio. Quindi niente. Mi ricordo, Lucio è un eccezionale illustratore toscano, eravamo insieme in fiera e c'era un geek o nerd, qualunque cosa fosse, un simpatico ragazzo con una maglietta con 1 più 1 uguale 10. E io mi sono stupito a dovergli spiegare che guarda che è vero, se tu conti in sistema binario. Il problema è che come facevo a spiegarlo? Cioè, non sono un insegnante, ho dovuto ragionarci su. Credo che Lucio abbia annuito con indulgenza e si sia chiesto perché mai cercassi di spiegargli della matematica, però... gli amici si riconoscono nel momento del bisogno. Il gioco qui mi piaceva l'idea, invitandoti in trasmissione, di estrapolare un po' al di là della trasmissione questa tua professionalità, che io vedo molto promettente anche sul mercato del lavoro, se vogliamo metterla proprio banalmente in senso concreto, perché è qualcosa che può funzionare in tanti campi. Infatti mi sembra che questo tuo sketchnoting lo stai applicando in tante situazioni che non ha niente a che fare con il mondo della cultura pop, o sbaglio? Sì, nel senso che in realtà per ora forse il lato più pop in cui mi sono trovato ad avere a che fare, cioè a portare questo tipo di cose, è stato al Circolo dei Lettori durante proprio una delle presentazioni di Scott McCloud. Quindi insomma per me è stato praticamente meta fumetto live, certo. Cioè io ero emozionato, e poi quando ho fatto vedere i disegni a Scott, che peraltro gli devo ancora mandare via mail perché non ho ancora avuto il tempo di riassettarli, tanto ti risponderebbe 15 anni dopo, quindi... Sì, no vabbè, però ci può pure stare. Michele Poschini anzi gli chiedo pubblicamente scusa, perché gliele avevo anche promessi nella sua mailbox, ma tristemente neanche un attimo. Michele Poschini, per chi non è dell'ambiente, è l'editor in chief, lui dice di essere il numero 2 di Bao. Io non lui mi dice sono, di essere il numero due. Non mi sono forse posto per il problema della gerarchia, benevolenza, insomma, perché noi sì. conoscendo Michele da lunghi anni di militanza nell'ambiente, che poi averlo trovato alla guida di uno dei più bei marchi editoriali italiani va tanto di cappello. Vabbè, io l'ho citato al di là delle gerarchie perché lui era lì e quindi ne avevamo parlato. Certo. Quindi, insomma. E quindi questo è stato il lato un po' più pop. Effettivamente mi sono trovato a collaborare con realtà che in realtà potrebbero essere più vicine al mondo del design come tipo di committenza, a partire dall'ITC ILO, che è l'International Training Center delle Nazioni Unite. Aspetta. Qua a Torino. FCA, che è una, cioè insomma Fiat, che insomma a Torino lavorare con Fiat è quasi okay. una banalità, però insomma ci vuole anche un po' magari anche di tempo per entrare nella loro sfera di interesse. Esatto, penso che la cosa difficile sia comunque in ambienti che non conoscono il fumetto, in principio sia più difficile introdursi con questo tipo di modalità di riproporre i contenuti, di sintesi, di... Sì e no, nel senso che in realtà resta questo scoglio duro del far capire a chi non è non è un appassionato del fumetto, che il fumetto non è una roba per bambini, non è una roba... Grazie a Dio, insomma, tutto il giro di graphic novel, il fatto tutto sommato... anche dei famosi premi Strega con le candidature di GP e Zero Calcare, tutto questo parlarne, entrare anche nelle librerie di varia, ha portato a un cambio di percezione, però resta lì, resta pensato esatto. al mondo dell'editoria, paradossalmente molto anche nella testa di chi fumetti li fa. Nelle aziende invece la necessità di in qualche modo spremere a livello visivo questi concetti, arrivare, essere comunicativi, essere veloci anche perché sei in un terreno di competizione e di business, certo. È diventato molto funzionale. In America ogni volta che possono inventarsi qualcosa di nuovo per fare business e facilitarlo, lo fanno, quindi... da quel punto di vista questa cosa è arrivata in Italia da un'altra porta, che forse certo. è più quella del business, però poi il crocevia disciplinare di quello che sono poi le effettive, come dire, competenze che possono essere utili per fare questo tipo di mestiere passano, almeno per quello che è stata la mia storia di sicuro, ma secondo me gioco forza, entri sicuramente almeno a sfiorare quello che McCloud racconta in Understanding Comics, in fare il fumetto e così via. Tanto che lo stesso McCloud, in realtà, lui sta uscendo dal suo seminato e il prossimo saggio fumetti che farà sarà sulla comunicazione visiva in generale, quindi anche lui sta virando verso quella direzione lì. Io quando l'ha detto, non mi ricordo se in presentazione o in backstage, avevo le lacrime agli occhi, ero in ginocchio, dicevo, non sono degno maestro, però... quindi sì, secondo me c'è ancora una forte... per questo mi piace l'idea, perché comunque si parla magari oggi di innovazione, di quello che può essere, no? Le modalità espressive del fumetto. C'è ancora una certa tendenza per chi lavora nel mondo del fumetto a vederla come una gabbia, un business model molto rigido forse, o comunque molto consolidato. Invece, distaccandosi dalla pubblicazione, la modalità come dire, di racconto, di disegno, cercando anche un'altra forma di fruizione. Esatto. O magari altre forme di applicazione a quel tipo di fruizione. Esatto. Vabbè, dopo tutte queste parole qua ti faccio annunciare una canzone e poi parleremo di Bud Spencer e Terence Hill, perché i nerd devono sbracare ogni tanto. Posso? Cioè io adesso per me no. è un'emozione fortissima annunciare una canzone, insomma, a casa di qualcun altro. Prego, allora, my pleasure. Io chiedo in regia, mi pare, Go dei Chemical Brothers, ci siamo? E decisamente la mia playlist ha sovrascritto quella di Fabrizio, quindi evidentemente il computer riconosce il padrone. È la famosa voce del padrone, esatto, no? Esatto. Il grammofono. Vedere me che sono spiantato eternamente, che tipo che posso stare a Porta Nuova alle 8:30 di sera e non mi guardano perché ho 10 euro nel portafoglio, che con il nome di padrone, scusa tanto, ha qualcosa di... comunque, sono solo Nuvolette, Fabrizio Forchi, siamo partiti con discorsi molto importanti, quindi... devierei, giusto perché c'è questa dualità nella cultura pop, in tutto quello che sono le nostre passioni, cerchiamo di dimostrare che sono cose serie, giusto per citare un altro podcast interessante, che è quello di Paolo Ferrara, assolutamente, qui su Torino. Prima o poi dovremmo farci una multi diretta all together, qualcosa del genere. Avevo lanciato per le finali di stagione, l'idea per i finali di stagione, più che altro. Poi chi fa il padrone di casa, nel senso chi mette lo studio, quello potrebbe essere. Lì sarà, allora a quel punto ci toccherà fare tre appuntamenti. Ah, wow, il sorteggio. Il sorteggio. Comunque c'è questo un po' dualismo tra il fatto che sappiamo che sono cose serie, che il fumetto è un linguaggio che ti permette di raccontare un sacco di cose, e poi c'è l'entusiasmo nerd per tutto ciò che ci ha emozionato quando eravamo bambini, adolescenti, e che vogliamo trasmettere. Posso dire, e questo ti chiedo se condividi, però, che ciò che ha emozionato noi quando eravamo bambini e adolescenti, da Star Wars a certo fumetto Marvel, a PK, aveva qualcosa di più di ciò che viene prodotto oggi. Per qualche motivo è come se ci fossero dei contenuti in più, al di là della nostalgia. Questo è un discorso a rischio. Allora, io cammino sull'orlo del rasoio, perché secondo me quando si parla di emotività sei sempre a rischio soggettivismo. Esatto. C'è un problema che si chiama nostalgia, ok. Stiamo adorando tutto ciò che ci piaceva quando eravamo bambini, ok. Perché, esatto, però diciamo... Io ci metterei proprio un pizzico di Umberto Eco che dice che il messaggio è qualcosa che tra chi lo emette e chi lo riceve ha uno sforzo collaborativo, quindi anche chi lo riceve ci mette del suo, no? Allora, okay, secondo me anche chi in qualche modo riceve questo tipo di comunicazione, come la ricevamo noi, noi stessi ci mettevamo del nostro, allora, e quel ruolo attivo ci è rimasto in memoria, per cui le emozioni legate ci restano in memoria, e il ruolo attivo di oggi lo vedremo, le emozioni lo vedremo, lo stiamo iniziando a vedere nella generazione dei ventenni, che se noi guardiamo i meme del loro periodo nostalgico si rifanno ai Pokémon, Pikachu, eccetera, e da lì in avanti. E quindi insomma magari fa anche un po'... A noi fa sorridere perché dice, sì, vabbè, ma quella era già una merda, cioè, esatto. Stiamo scherzando. Però se lo dici per esempio a Giacomo Bevilacqua, che lui è dell'83 se non mi ricordo male, eh sì, della leva mia, e lui è già un po' su quel periodo ancora un attimo a metà, e ancora lui, cioè lui i Pokémon li giocava, per dire, no? Io ho degli amici dell'86 ancora che erano molto legati. Per me, cioè, Tartarughe Ninja è finito quando ho iniziato a trasmettere su Italia 1 i Power Ranger, è stata già un'eresia, e da lì è stata un'eterna discesa. Sì, io ho questa sensazione che i Power Rangers fossero una cagata, infatti. Esatto, ma però adesso arriverà qualcuno che ci ucciderà, perché nel mondo nerd c'è sempre un buon motivo per accendere un flame e farsi una guerra inutile. Ok, però l'abbiamo fatto l'altro ieri con... l'argomento era il telefilm antologico Black Mirror. Ah, beh, cazzo, sì, sì. No, cioè, veramente, cioè, Black Mirror in un frame che ha coinvolto praticamente tutti i sceneggiatori di Torino praticamente. Camillo Bosco, tu, se in questo momento mi stai sentendo, sappi che hai detto un'eresia. Ripartiamo. Sono intervenuto io. Ti rendi conto che stiamo commentando? Vabbè, niente. Torniamo sul seminario. Siamo sul meta Facebook. Insomma, ok. No, quindi secondo me, io non sono così convinto che fosse migliore la roba nostra rispetto a quella che c'è adesso. Dipende. C'è tanta roba di merda che gira. C'era anche tantissima roba di merda allora, che magari è invecchiata malissimo. Cioè, sì. Che ne so, tra le tante cose, al di là della cultura geek, magari se entriamo più nel generazionale, secondo me Dawson's Creek è invecchiato veramente male. Cioè, guardarlo adesso proprio a me fa venire la gastrite proprio. Non so, Beverly Hills, annuisco perché lì, ma... al di fuori, per qualche motivo i telefilm non li guardavo, quelli di quel periodo, a parte Super Vicky, che però è rimosso, cioè per non... cui insomma ce ne non poi... credo che si possa anche solo provare a guardare Super Vicky adesso, credo che sia terrificante. Ah sì, io la odiavo a morte, l'avrei scomposta con un cosa con ci rimane di Super Vicky, la leggenda urbana cosa ci rimane di Super Vicky, la leggenda urbana che fosse Billy Corgan il fratellino è tutto ciò che, esatto, che ci rimane, quindi rimuoviamo, boom. Quindi direi che, ma poi per esempio io ho visto Inside Out l'altra sera, la Pixar non è affatto qualcosa a cui noi possiamo appellare a nessun tipo di nostalgia, se non andiamo ad acchiappare Toy Story e gli inizi della Pixar, Steve Jobs e tutto quel lato là, però non è già qualcosa che possiamo dire ok, noi sognavamo le avventure di Steve Jobs quando eravamo bambini, no. E però anche è fantastica, perché il personaggio Steve Jobs è emerso alla cultura popolare di massa dopo. Non sapevamo chi fosse Steve Jobs. Tu lo sapevi? Magari tu sì. Io ho iniziato ad accarezzare il fenomeno di Jobs quando lui è ritornato in Apple e ha portato l'iMac, ma era già all'università, studiavo già design, quindi già un altro tipo di storia. Inside Out è favoloso e ha una, come dire, una lucidità e una semplicità, giusto per ritornare, visto che stavamo parlando un po' di metafore grafiche e visive per concetti complessi, magari legati ai dati, ecco, che è un po' la base di tutta la narrazione a fumetti di animazione, tanti elementi, e ciò che ha fatto il successo di Pixar, DreamWorks, dell'animazione 3D. Io in questo caso la porto mia su un altro tipo di ambito, che è quello della data visualization, le infografiche e così via. Quando ti trovi a dover raccontare come funzionano certi processi psicologici, come mettere veramente in una metafora visiva e di storytelling cose veramente complesse, non a caso c'era la Columbia University a fare da appoggio culturale agli autori del film, quindi non è una sciocchezza. Hanno fatto delle metafore meravigliose, secondo me azzeccatissime, molto corrette. Nella loro semplicità possono veramente raccontare dei concetti complessissimi su psicologia, neuropsichiatria, eccetera, a dei bambini. Quindi secondo me veramente Inside Out è un film da vedere, che ha un grandissimo valore al di là di quella che può essere la sceneggiatura in sé, ma proprio sull'operazione di mediazione culturale. Ok, che è un po' tutto il discorso, la mediazione culturale. Te ne butto un altro seme. Uno dei dibattiti in questo periodo sull'analfabetismo funzionale, che secondo dei dati è più o meno alto in Italia. Mi sono fatto questa idea che l'analfabetismo funzionale viene fuori da tante persone, analfabeta funzionale chi non riesce a interpretare un determinato serie di concetti, frasi più complesse, eccetera, tutta una serie di persone che non hanno amato la lettura attraverso il fumetto, per l'Italia probabilmente Topolino o il Corriere dei Piccoli per la nostra generazione ancora, tutta una serie di persone che non hanno trovato qualcosa che era bello leggere e non che qualcuno gli diceva guarda che fa bene leggere. Sì, qualsiasi escamotage. Per noi magari era Topolino, oggi potrebbe persino essere la biografia di Cristiano Ronaldo scritta da un ghostwriter. Esatto. Però il punto è proprio avere quella scintilla che fa esplodere la curiosità. Io non sono tranchant nel confronti della letteratura dopo in aver paragone con i videogiochi, un termine francese così dovrò sbagliare i congiuntivi per i prossimi 20 minuti. Ok, allora poi li segneremo. Avrebbe. E faremo una hit list. Esatto. No, ma perché è tutto questione di alti e bassi, sennò uno poi se la tira. E non saresti tranchant nella distinzione tra linguaggi? No, nella distinzione di formazione attraverso i media, cioè secondo me il videogioco può tranquillamente passare dei concetti anche molto alti rispetto alla letteratura. Poi è chiaro che magari è un altro tipo di fruizione, gli studi su quello che può restare in memoria a livello di formazione in confronto tra una lettura di letteratura eccetera rispetto a una formazione che usa strumenti interattivi, li vedremo in futuro. Però la tendenza in tutto quello che è la formazione contemporanea è cercare di uccidere la noia, trattenere l'attenzione il più possibile e portarsi verso il gioco come esperienza interattiva, dinamica, quindi tu sei all'interno di tutto questo. Quindi sicuramente il libro è la letteratura è un media favoloso, interessante, che ha saputo raccontare tantissime cose. Però perché dobbiamo stare lì a... cioè, Socrate aveva lo stesso terrore nei confronti della letteratura pensando alla cultura orale, però noi abbiamo migliaia e migliaia di pagine scritte in questo momento, quindi c'è sempre un confronto. Quindi secondo te buona formazione può prescindere dalla lettura? No, non per forza. Però attualmente potrebbe. No, però potrebbe. Magari in futuro sì. Cioè, l'importante è che passino determinati concetti, non è così importante con quale linguaggio vengono veicolati. Difficile che... Allora, secondo me, più che prescindere dalla lettura come gesto cognitivo, non tanto come amore nei confronti del leggere letteratura, eccetera, quindi la lettura secondo me sarà indispensabile, però sarà una lettura diversa che prenderà molto di più parte di quella che in gergo chiamiamo grafica, sì, cioè quella capacità di saper leggere elementi grafici e collocarli sia in funzione che in azione all'interno di uno spazio. Quindi è una qualcosa che le nostre scuole tendono a non insegnare. Siamo fortissimi su quella, fortissimi, insomma, comunque molto strutturati su quella che è la parte di gestione letteraria, su quella che è la parte di gestione logico-numerica, quindi matematica, italiano, le materie umanistiche, eccetera, ma quando noi dobbiamo andare a relazionare gli elementi di cultura visiva, stentiamo. Questo è anche il motivo per cui va a inserirsi un lavoro come quello che faccio io, proprio perché in realtà c'è una forte immediatezza, anche una grande capacità di memoria nell'utilizzare stimoli e sorgenti visive, ma non tutti sono capaci a veramente architettarle, e quindi c'è un buon discreto bisogno, non c'è tantissima gente che lo faccia e lo faccia bene. È questione di sintesi, immagino. C'è un intervento, sì, sulla stampa di oggi che diceva che servirebbe fare più riassunti a scuola e meno dettati. Lì c'era una polemica con un articolo di Gramellini che però non avevo letto. Beh sì, non siamo... Beh, noi già rispetto alla scuola americana ci evitiamo quelle noiosissime gare di sillabazione, che io ancora mi chiedo, ma perché sti bambini li fai... cioè, capisco che fai lo spelling al telefono quando poi lavorerai negli anni dell'università in un call center cercando di mantenerti, eccetera, però non è quello che ti insegna a scrivere. Noi non facciamo gare di sillabazione, per noi la sillabazione è funzionale a quella che è la gestione. Credo che italiano e inglese siano morfologicamente molto diversi. Sì, però... E questa la mettiamo insieme al verbo tranchant. Adesso devo... Esatto, no, dopo una strada del genere, un sacco. Cioè, non lo so. No, però appunto il discorso è che la sintesi ti aiuta. Io faccio questo mestiere anche grazie a una brava maestra elementare, perché mi ha insegnato a prendere appunti in questo modo un po' grafico. Fin da quando ero bambino, per me è tutto cominciato da una cosa che per me era normale, cioè io prendevo appunti in questo modo, scomponendo, facendo schemi, andando a fare liste di bullet point, poi le immagini, magari gli schizzi, eccetera, poi li ho curati di più per renderli anche visivamente più interessanti. Ma domanda stupidissima, tu sei destro o mancino? Sono destro. Ah, peccato, sarei escluso dalla conquista della terra. Però... no, lo so, immagino che, insomma, voi mancini avete anche un modo neurologicamente differente di... Qualunque cosa... Ci sono un sacco di saggi sui mancini. Sì, insomma, vabbè. Però, insomma, io sono è tutta molto posa, più è più o meno come Linux, più o meno come mettere Linux sul computer. Ti faccio lanciare la seconda canzone che e poi comunque adesso non so più come siamo tanti. Messi... Ok, ah figo, speriamo che decolli, perché io ci tengo a questi bischi. Vediamo se la tua scelta British musicale non sarà di nuovo sovrascritta dalla mia. Dai. Allora, io condivido con Licia Troisi un'estrema passione per i Muse. Ho detto, piazziamo uno degli ultimi singoli del nuovo album, che è Psycho. Vai. E questa volta i Muse hanno avuto la meglio, sì. E la selezione musicale di Fabrizio Furchi, il nostro ospite di oggi, approvata da Licia Troisi, che è la nostra scrittrice fantasy, si può dire la più importante scrittrice fantasy italiana, quantomeno come posizione e notorietà? Assolutamente sì. assolutamente. Credo sì. Che anche se lei è una persona molto umile e terra terra, però possa accettare in sua assenza, si può dire, ma in sua presenza, fatti, ci tirerebbe dietro. I fatti parlano esatto. più di quanto non sia. Quindi, ciao Licia. Il suo silenzio e sì, sì, no, sempre la saluto con molto affetto. Torniamo in onda con Sono Solo Nuvolette e smanettavamo, nel senso che per me è un smanetto. Tu usi social network, io smanetto nel senso che faccio solo dei casini, però si discuteva di un tu sei molto presente sui social network fin troppo cioè io ho questa cosa per cui quando aggiungo, magari conosco qualcuno, lo aggiungo su Facebook, poi lo rivedo. È successo di recente con i coworker di Talent Garden, okay. Con cui ormai sono entrato nel team, quindi. E allora mi dicono: da quando ti ho aggiunto su Facebook ho solo tuoi post nel newsfeed. Questa cosa inizia a far venire un po' l'ansia, quindi ho da un lato, cioè da buon gemelli, ho un lato mio che è un grafomane dei social, quindi okay. scriverebbe ogni 5 minuti una stronzata, okay. e dall'altro invece c'è quello che si pone il problema di cercare di fare comunicazione, non una consumazione, però in realtà sostenibile. Il freudiano, sostenibile da chi mi fruisce e che sia consistente, cioè tutto sommato che abbia, non dico una linea editoriale, però un pensiero un po' solido. Insomma, il succo è non pubblicare troppe stronzate, quindi restando. Hai semplificato il tuo concetto. Almeno qualcuna ogni tanto. Hai fatto graphic facilitation nei confronti, sì, di quello che stavi dicendo. Logic facilitation. Però il punto è che questo meme, tra l'altro l'hai fatto tu? Sì, sì, l'ho okay. fatto io ieri. Allora, c'è stata questa cosa mi aspettavo Miss Italia. Un paio, cioè, di prese per il culo dagli amici, perché me nerd soprattutto, perché la citazione è di Apocalypse Now, che è ambientato in Vietnam, okay. la guerra non è quella, però. Allora, a monte, io non l'ho neanche capita bene perché non guardo la televisione, Miss Italia ha detto una vacata cosmica. Sì. La giovane Alice Sabatini, mentre era intervistata col trio finalista, si è trovata ad avere una di quelle domande dal presidente, credo, di giuria, Claudia Mendola: in quale epoca storica avresti voluto vivere? E lei, cioè, poi in realtà domanda da speaker radiofonico disperato che non sapeva chiedere. Sì, sì, proprio tipo: ma di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Esatto. Da lì parti, esatto. Cerchi di fare un'intera puntata sul bianco. Esatto. Però insomma, cioè. E lei ha tirato fuori il 1942, poi ha allungato, diciamo, il 1942, che se si fosse fermata al 42 uno dice: noi eravamo felicissimi, cioè, esatto. Guida galattica per Miss Italia. Secondo me tra le righe, questo è lo sdoganamento, dopo addio che grazie per tutto il pesce che ha fatto impazzire i giornalisti del televisivi, perché Samantha Cristoforetti avesse ringraziato per il pesce e hanno detto al TG1... E questa è stata una delle mie tre sortite annue sui social network. Invece al TG1 hanno detto che una frase del romanzo di Douglas Adams, Guida galattica protostoppisti. Ci sono quelle verità approssimative che sono vere approssimative, perché stai parlando. Il fatto che siano riusciti a beccare la citazione è già anni e luce. Abbiamo visto, qui capiamo, sì, perché in realtà i nerd stanno dominando parte del mondo, cioè, perché c'è Wikipedia. No, vabbè, ma Wikipedia chi l'ha creata? Ah, ok. Quindi torni sempre. Giustamente, però continua. Cioè, quindi lei ha detto 1942, le hanno chiesto perché, visto che insomma è pieno periodo di seconda guerra mondiale, ha detto: no, perché le pagine sono piene di pagine dei libri che raccontano, io avrei voluto vedere com'era dal vivo, dal vero, tanto sono una donna e non avrei fatto il militare. Quindi, cioè, in questa graduale non so bene cosa dirti. Arrampicamenti multipli, esatto, sugli specchi. Imbarazzatissima, poverina, poi peraltro, insomma, esatto, non deve essere stata neanche una situazione così facile. Si è iniettata questa cazzata non culturale, perché effettivamente c'è proprio un buco. Cosmica. Cosmica di sicuro, però c'è un buco sicuramente da un lato, probabilmente emotivo, che lei sapeva che cavolo dire, sì, in quel momento, improvvisato, era emozionata. Ma non è solo che stiamo cercando di far dare delle risposte sensate delle persone, cioè, hai ragione, la sto depenalizzando. Comunque ieri ho pensato foto con la frase mi piace l'odore del napalm al mattino di Apocalypse Now, con la faccia, una delle foto uscite di lei sul web, che fa molto pubblicità della DAV, esatto, e questa cosa in realtà tra ieri sera e oggi ha avuto una cosa tipo 3000 condivisioni, cioè è una delle più grandi stronzatine che ho pubblicato sulla mia pagina, e è del post più, come dire, che più virale di tutti quelli. Esiste una regola dei social network pubblicata in tutta la mia vita. Esiste una regola dei social network per cui tu ti sbatti per tirare fuori qualcosa di sensato e poi la cosa che diventa virale è una vacata? Sto cercando di pensare a una sorta di grafico a campana rovesciata per cui tu hai sull'asse X il tempo che ci metti a elaborare una cosa, sull'asse Y la cura, e quindi tu hai probabilmente un punto a metà in cui riesci a fare qualcosa di elaborato abbastanza bene, con un grafico a campana che ti dice vai, che questo è comunque ha il suo successo, però se ci metti troppo e non sta sul pezzo, ciaone. Se arrivi troppo presto, arrivi molto sul pezzo col tempo, ma fai una schifezza, e quindi secondo me il successo della viralità, per dirla in modo un po' ingegneroso, è il giusto mezzo, cioè tutto questo mezzo, dopo, però è difficile arrivare al giusto mezzo, ci cioè vuole anche una variabile, la variabile culo, che ecco, infatti, che lì okay, non c'è nel grafico, una vera la no, botta ma di che noi alla fine arrivare al giusto mezzo, buon senso, sì, quindi sì, alla fine, cioè il senso dei social network è qualcosa che può insegnarti mia nonna, quindi va bene. Forse il senso dei social network. Ma secondo me lì il senso è proprio un po' anche quello, cioè potrebbe essere il buon senso della rock band. Finché tu fai una cosa e ti diverti e riesci a divertirti, gli altri percepiscono quel divertimento e si divertono a loro volta. Non è però sempre facile fare una cosa che sia, cioè che ti diverta, ma che allo stesso tempo resti nei gusti, sì, di chi può divertirsi insieme a te. E quindi insomma, sì, beh, penso che valga per direi per i Guardiani della Galassia di James Gunn, per beh, tornare è al fantastico, cinema fantastico, okay. I Guardiani della Galassia, tanto amore, cuori, okay, cuoricini, esatto, per i... fantastico. Credo che ciò che è uno dei trucchi per saltare direttamente al cinema, che è il fulcro della cultura pop in questo momento, che ciò in cui ci stanno imbroccando il Disney / Marvel, che quasi sempre hanno messo in mano a dei nerd, delle persone che sono entusiasti di quello che fanno, e quindi Guardiani della Galassia in un certo senso è uno Star Wars del 2014. Sì, sì. Beh, allora lì c'è anche stata una grande dose di sperimentazione. Non abbiamo nel nostro portafoglio i diritti di grossi personaggi come gli X-Men, come i Fantastici 4, quindi dobbiamo andare a scavare per tirare fuori cose divertenti, perché i Guardiani della Galassia oggettivamente, al di là dei Marvel Zombies, non se li cagava nessuno. Esatto. Io non ho mai letto praticamente nulla dei Guardiani prima che venisse fuori quel meraviglioso trailer, esatto, no? Geniale. Quindi è stata imbroccata il giusto tono per raccontare quel gruppo, sia in virtù non solo di quello che è stato fatto sui Guardiani, ma su quello che è stato fatto un pezzo prima e anche dopo, quindi sicuramente c'è Han Solo di Guerre Stellari tantissimo, ma c'è anche Serenity e così via. Quindi probabilmente c'è quel grado di sincerità narrativa che travalica il fatto che comunque sia una cosa ben confezionata per sì, il grande e allo stesso tempo probabilmente non c'erano tutte le attese di return on investment, okay, quindi di ritorno di investimento che possono avere gli Avengers, perché ormai loro sono a tutti gli effetti un brand e quindi vogliono, esatto, tornare delle spese quando veramente producono un grosso colossal, esatto, e questo è forse il lato più negativo di tutta la storia, che è sempre il lato più rischioso di tutto quello che attualmente, quello che sta mettendo la Marvel in cantiere. Tanto che paradossalmente il secondo Avengers è molto più ansioso, ansiogeno, più elaborato rispetto al primo, che in cui doveva essere un punto di arrivo. È un film a metà, è divertente, però per esempio non ha quella scioltezza scanzonata di Ant-Man, che è di nuovo un progetto un po' stile Guardiani della Galassia. Quindi loro riescono a sdoganare cose che in realtà nessuno aveva in saccoccia, perché c'è meno aspettativa. Infatti l'aspettativa, poi, esatto, temo che sia il macigno che pende su Star Wars Episodio 7. Che ne pensi? Io sono l'altro giorno stavo scrivendo a Giulia Arbace, che si occupa della comunicazione dell'ufficio stampa in Italia, tutta quella che è la promozione Marvel, Star Wars, Pixar, Disney, eccetera, e gli ho detto guarda, perché ha ripostato il trailer di Star Wars su Facebook, e gli ho detto guarda, tu lo sai che io ho una paura incredibile, perché finora tutto quello che è uscito, da un lato mi piace tantissimo, dal lato ho paura che sia la più grande operazione di fanservice dell'umanità. Sì. Però insomma è molto, è un'operazione di fanservice fatta molto bene. A me J.J. Abrams piace, io sono un super fan, sono stato un super fan di Lost, ma ho apprezzato persino all'ultima serie, nonostante, come dire, non fosse, cioè, neanche più Lost, fosse un altro lato di Lost, mettiamo. Okay. E mi sono piaciuti, mi è piaciuto Mission Impossible, mi è piaciuto anche tutti e due gli Star Trek, specialmente il primo, in realtà già il secondo era un po' più, e quindi le speranze ci sono. Lui è molto bravo, molto consapevole e secondo me è anche abbastanza maturo per parlare, per affrontare, secondo me, molto teorico. E questo potrebbe essere la parte divertente, è un nerd, sì, teorico. Sì, però quando c'è da scazzottarsi ci sa. Cioè, sì, il grosso problema, io spero che ci, vabbè, sia... Vabbè, ma far esplodere qualcosa sono capaci tutti. E capire il senso dei, sì, dei personaggi, sì, che... Vabbè, io non sono del tutto d'accordo che far esplodere qualcosa sono capaci tutti. Ok. Però, però allora ti, vero, faccio lanciare la terza canzone, intanto ragioniamo su queste esplosioni. Io già nel frattempo mi sono dimenticato. Se no andiamo a sorpresa. Questi sono i Cooks. I'm always where I need to be. E questa era Always Where I Need to Be. E ti ho bruciato sul tempo, padrone di casa, con questa voce molto di drive. Dopo Adriano Barone qui, che è venuto addirittura da Roma Milano, non mi sta più scoppiando niente. Lui aveva hijackato direttamente la puntata, cominciando a parlare di slash fiction e cose del genere. Gli ho detto, entro la fine della puntata parleremo di Dino Porn. E non abbiamo parlato di Dino Porn alla fine della puntata, strano ma vero. Sono successe quelle, ciaone, cose. Ciaone Adriano, che insomma anche noi abbiamo intervistato più di una volta. Hai giacato anche il vostro programma? So. Beh, sì, diciamo che noi cerchiamo, ma ormai siamo abituati a surfare con, okay, questa roba, quindi okay, okay, è un po' così. Per cui... per chi guarda in webcam, non ha, possiamo fare un po' di, però gli originali io ho sempre un po' di timore perché... No, ma vai tranquilla, c'è un gigantesco post-it piazzato sopra. Ah, sì, beh, ok. Stare a posto. No, poi comunque è roba che in realtà è già uscita, quindi... Chiamo a Giovanni. Ti lascio, ti fa vedere anche, in puoi webcam, anche sfogliare. Fa vedere in webcam. Qui sono, in realtà ho portato gli originali di tre lavori. In realtà quello che sta mostrando... Giovanni? È una, sì, è una serie di sketchnoting che ho fatto a giugno al Web Marketing Festival, che è appunto una... Questo è veramente il classico esempio di come adesso piazza Gianni Morandi, che lui sì che è un fenomeno web di comunicazione. Okay. È veramente un po' una metafora di come la realtà extra fumettistica in realtà cerchi anche di raccontare di entrare in contatto con quella che è poi la professionalità dei fumetti, magari molto di più rispetto a chi sogna da una vita di andare a disegnare Batman, Dylan Dog e così via, quindi frequenta la scuola del fumetto per fare quello. E poi magari quel tipo di narrazione si può applicare a tante altre cose che non sono per forza qualsiasi tipo di pubblicazione editoriale. E questo secondo me riesce a dare anche maggiore respiro ai professionisti. Lo dico perché io adoro il mondo del fumetto, stimo, mi piace anche il sistema editoriale italiano con tutta la sua... miriade di difetti che possono essere denunciati. Secondo me sicuramente è un circuito complesso, professionale, quindi ha tutti i suoi lati positivi e negativi, inevitabile. Sì, abbiamo provato un po' a raccontarlo con queste puntate avendo vari professionisti. Mi manca solo della filiera, sto corteggiando un tipografo, mi manca solo il tipografo. Okay, della perfetto. Filiera però no, secondo me quello che in realtà mi ha... Vabbè, poi ritorno sul Web Marketing Festival anche perché io non ero l'unico disegnatore presente alla kermesse. Ok, quindi è qualcosa che già un po' si sta... Good, voglio dire, okay, non un nome a caso. Quindi lui è veramente molto ricettivo e attivo nell'andare a entrare in contatto con realtà altre, diverse. A me Daniele, tra l'altro, Good è autore di Alias Daniele Bonomo, è anche autore di Tutti possono fare fumetti, che è una specie di guida entry level, sì. Credo che serva per il suo corso, credo che abbia un corso di fumetto, sì, alla scuola internazionale, sì, di comics, sì, di Roma, sì, sì. Ma è, sì, evidentemente si è ritrovato a doversi creare il manuale del, di fumetto base, per, beh, perché quello, sì, non è, cioè, fumetto base, sto usando un'espressione sbagliata, perché fumetto base è fondamenti del disegno, ma introduzione a che cos'è il fumetto. E in quello lui ci è riuscito molto bene. Beh, anche perché comunque, vabbè, poi lì c'è una questione di scelta, nel senso che tanto, cioè, come l'università probabilmente ci sono dei testi che ti troverai sempre ad avere a che fare, perché sono dei mostri sacri nel mondo del fumetto. Sicuramente Scott McCloud sarà, e Will Eisner saranno sempre, esatto, da leggere, da affrontare. Però perché non arrivare e sul fronte autoriale, ma con altrettanta sperimentazione, Art Spiegelman? Beh, sì, chiaro. Quindi sì, cioè, insomma, ovviamente Good aveva, ha il suo metodo, il suo approccio, e l'ha tradotto, okay, in una pubblicazione. No, quello che secondo me è un po', cioè, di non, direi magari il mio messaggio al mondo del fumetto è di non chiudersi, per quello che è la mia esperienza professionale, che parte da il mondo del design in realtà, perché io come educazione arrivo da lì, università, architettura, bla bla bla, okay. Mi trovo a trovare dei parallelismi strani tra quella che è la professione dello sceneggiatore, la professione del disegnatore, e vedere il modo in cui questi due tipi, e stiamo parlando, insomma, di qua, non voglio dire stereotipi, ma una sorta di abitudini, insieme di abitudini, sì, no? Senza andare caso per caso, perché sarebbe, no, ridicolo, vabbè. Però delle tendenze che portano, anche per deformazione, necessità professionale, gli sceneggiatori a essere un po' più orizzontali, anche curiosi verso quella che magari è l'innovazione, nuove situazioni, nuovi flussi, nuovi fenomeni. Quindi forse la sceneggiatura è una disciplina più vicina all'architettura tuttologa, no? Mm. I disegnatori invece hanno moltissimo in comune con la professionalità, come l'ingegneria e gli ingegneri, eccetera. Quindi sono in realtà molto verticali e sono estremamente competenti su quella che è la loro nicchia, ma faticano a mettere il naso in altri campi, e quindi c'è anche una sorta di maggiore tendenza alla diffidenza e così via. Poi in sé forse anche i fumettisti in generale sono un po' più chiusi. Penso che sia il senso, quindi... un po' anche il motivo per cui faccio questa trasmissione, perché mi piaceva l'idea, e sto scoprendo anch'io la quantità di professionisti del settore che abbiamo a Torino, con cui si può chiacchierare, con cui si può provare a andare dentro le questioni, che questo è il vantaggio dell'avere quest'ora di trasmissione, di essere di persona e non via telefono. Di non andare neanche a farle sul posto. Questo è qualcosa che fa benissimo Mercury e Mercury Comics, le interviste sul posto alle fiere. Sono solo nuvolette, vorrebbe essere, questo lo dimostra anche di per sé il fatto che, nonostante tutto, non stiamo chiacchierando e stanno uscendo fuori concetti interessanti. Sono anche due impostazioni diverse, quindi di per sé possono convivere già anche all'interno del far qualcosa che commenta il fumetto. Ci sono vari filoni, quindi immaginiamo quanta ricchezza c'è al di sotto della percezione comune di fumetto, della parola fumetto. No, ma appunto, poi in realtà se vogliamo parlare di quella che è la scena del fumetto torinese, che comunque è molto vasta, che comunque è terribilmente silenziosa, secondo me, cioè, i fumettisti di Torino hanno bisogno, ma proprio bisogno, anche se non gli viene spontaneo, di fare casino. Il fumetto a Torino ha bisogno di una piccola rivoluzione. Io mi auguro e spero tantissimo, tantissima fiducia, che questa avvenga con Morgan Lost, che mi sembra un progetto molto bello, molto ambizioso. Nasce da sicuramente un capofila, che è Claudio Chiaverotti, che è stato il primo, insomma, coautore di Dylan Dog di Sclavi, esatto. Non è, voglio dire, non, di certo non l'ultimo arrivato, esatto. Che insomma, appunto, ha visto poi ogni Brandon, tanto se lo dimenticano su Blasonate Enciclopedie del Fumetto Torinese, però questo capita. Però tanto non è quello il punto è che non è tanto stare sulle enciclopedie, ma stare nel pensieri della gente, nelle letture, nella memoria, e quindi il fatto nel che nel panorama culturale, nel sistema culturale, sì, ci vuole l'orgoglio degli artisti torinesi sia scrive, sia chi disegna, deve emergere, deve farsi forza, deve uscire. C'è proprio una sorta di Torino Pride, esatto. Del fumetto. Esatto. Perché poi effettivamente, se noi guardiamo quello che è successo come fenomeno culturale, a partire dalle persone che orbitavano intorno alla scuola del fumetto di Roma, poi questa cosa adesso sta guidando, volente o nolente, il fumetto in Italia. Per cui i gruppi che comunque fanno capo a quella che ormai secondo me è proprio una sorta di scuola di pensiero, di artistica, corrente artistica, corrente, un gruppo, sì, creativo, un gruppo, sì, creativo. Potremmo anche definirla in un modo più anglosassone, con un'accezione meno negativa di quella che nella nostra testa la percezione di questa parola è quella che stavo pensando io, una, però una piccola lobby, okay, che però non è una roba, cioè io non la vedo, ci tengo a specificarla, come una mafiosa, ma come uno sapersi organizzare per dar forza ai propri progetti e far emergere determinate, esatto, anche perché poi se noi andiamo a parlare di magari di una realtà come Bonelli, che ha una grandissima tradizione con dei grandissimi professionisti, poter portare gente nuova, artisti nuovi, giovani, molto giovani, a lavorare lì dentro, è chiaro che ti vai a scontrare con, insomma, o comunque a incontrare con una realtà pregressa, consolidata. Quindi devi essere anche un po' forte, dirompente, disruptive, come direbbero, okay, gli anglosassoni. Questo... Beh, questo è un, diciamo che è un quasi fuori programma, interessante per chi ascolta la trasmissione, anche magari con un occhio di riguardo, studenti delle scuole, chi vuole conoscere un po' di più di questo mondo, questo era uno spunto interessante sicuramente. Fabrizio, siamo gli sgoccioli, quindi ti chiedo qualche coordinata spazio-temporale dove trovarti, blog, Facebook, Bits and Chips. Sì, allora, attualmente io sono, cioè faccio le cose per gli altri, ma la figlia del calzolaio va sempre in giro scalza, quindi io non ho ancora il mio nuovo blog e sito, che spero di riuscire a, okay, pubblicare quanto prima, perché abbiamo tutta una serie di piccoli eventi che ci vedranno professionisti, però attualmente il modo più facile per trovarmi online, oltre a cercarmi col nome e cognome su Facebook, Twitter e tutti i vari social di questo mondo, sono persino su Ask a rispondere alle domande degli adolescentini. No, vabbè, ormai non lo uso neanche più, però ero curiosissimo. Okay. Ero curiosissimo. Early, maledetti, sì, early adopter. No, visandchips.com, che è il cioè tu quindi appartieni al gruppo umano che è sceso per primo dagli alberi. Sì, no, mi fai, no, io appartengo al gruppo umano che sarebbe ancora lì, no, sugli non alberi, sono però al gruppo umano che è proprio sceso per primo, io sono subito dietro agli early adopter, perché ho una sorta di endemica pigrizia anche. Quindi dico, ma però questa cosa potrebbe essermi utile, forse è meglio che mi ci butti, che sia sabaudità, però magari... che sia sabaudità questa, eh sì, questa strana metà, okay, tra il bugian e il dobbiamo essere geniali ma incompresi, quindi, ah, ok, cioè, ok, insomma, certo, molto, certo, incompresi, certo. Quindi bizandchips.com è il sito del gruppo, e poi vedo che... artistico, no, di data journalist, con cui facciamo data visualization, infografiche, eccetera eccetera. Saremo presenti a Supernova, che è, okay, l'evento che ci sarà questo weekend in piazza. Volevo offrirti l'assist per parlarne, ma il 26 e il 27 settembre è un non voglio parlare di World Next Fest, perché ovviamente, cioè, sono un po' logicamente i concorrenti, ma loro stanno a Milano, però è effettivamente un evento sull'innovazione organizzato da Talent Garden, che coinvolge, insomma, 100 speaker, 50 laboratori, workshop, 20 talk, conferenze, ci sono startup, c'è persino un angolo mentor dove tu puoi portare la tua idea e insomma avere dei consigli da businessman, okay, che ti sanno un po' guidare eccetera, e soprattutto un modo di portare l'innovazione a contatto con la gente comune. Quindi non solo l'innovazione dei fighetti geek che stanno lì, cercano di farsi le startup e uscire su Wired, ma capire che anche il macellaio sotto casa, il tuo vicino di casa eccetera, può trovare degli interessi, e comunque poi l'innovazione, quando si sparge, quando genera cambiamento, coinvolge anche loro. Lo vediamo con, per esempio, quello che è successo con Uber, i tassisti. Ecco, questo è un festival anche per i tassisti. Ok, cioè, ok, potrebbe, ok, insomma, no, vabbè, vorrei la seconda puntata, la seconda metà. Hai già chiamo la seconda ora, Giovanni, possiamo, no, vero? No. Occupiamo una seconda ora. Però se tu vuoi finire con la canzone, l'ultima che ti ho lanciato, in realtà questa canzone io te l'ho messa proprio perché è un mio legame con l'Africa, perché oltre a fare tutte queste simpatiche cose collaboro con una realtà torinese che si chiama ONG 2.0, che si occupa di progetti digitali per lo sviluppo e la cooperazione internazionale, e sarà anche presente a Supernova. E quindi, insomma, il mio amore per l'Africa viene raccontato dai Negrita in una radio con Radio Conga. Ok, benissimo. Ciao a tutti, a martedì prossimo. Sono Solo Nuvolette, chiude.